L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, dagli studi di Milano, come ogni sabato il nostro appuntamento con l'Europa, l'Europa che va al di là dell'attualità economica, politica. Qui cerchiamo di accompagnare l'Europa verso il suo percorso, il suo percorso di fusione, di conoscenza, di contaminazione. Mettiamo la cultura, mettiamo le opportunità al centro e cerchiamo anche di raccontare l'Europa nella nostra quotidianità, quanto l'Europa entri giorno per giorno. Le coordinate per seguirci anche virtualmente, vi ricordiamo che hanno programmi in collaborazione con Euronet Plus, quindi euronetplus.eu, il portale per vedere tutte le inchieste, vedere tutti i dossier, un portale in tante lingue diverse, veramente un osservatorio privilegiato della nostra Europa. Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia invece sono le nostre coordinate per trovarci sui social network, in particolare Twitter e Facebook, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Si parte ogni settimana un viaggio, oggi la nostra Europa parte da Genova. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova questa settimana ha presentato il nuovo logo. Ok, tante città hanno un logo, tante città lo fanno. Il logo però che è stato lanciato dalla città di Genova nasce all'interno di un progetto europeo, un progetto di partecipazione attiva dei cittadini, quindi al di là del logo che adesso tenteremo anche di farlo vedere via radio, comunque l'abbiamo già pubblicato sulle nostre pagine in Facebook, è veramente il frutto di un lungo percorso dove l'Europa intera è stata coinvolta per capire il perché di questo progetto e il perché anche di questo risultato finale. Abbiamo con noi Cesare Torre, che è il direttore della comunicazione e promozione della città, coordinatore del gruppo di lavoro di Eurocities, di cui tra l'altro Genova ha la presidenza, e coordinatore del progetto City Logo per la città di Genova. Buongiorno Torre, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie. Allora, è una scritta accattivante, una scritta sobria ma anche maliziosa, così ho visto le descrizioni sui social network di questa scritta Genova che è diventata il vostro logo, e poi sotto uno slogan in inglese, però uno slogan che è molto, molto diretto, molto invitante. Come nasce questo logo? Nasce da un concorso internazionale di idee realizzato nell'ambito del percorso del progetto europeo Urbact City Logo, appunto, che riunisce 10 città europee, tra cui la nostra, in un percorso di city branding, di cui ovviamente il logo è, insomma, parte integrante, un passaggio importante, ma non l'unico, è solo un passaggio di un percorso ben complesso e articolato. Mm-hmm. Ma più città quindi che hanno lavorato su dei logo che fossero simili, o più città che hanno fatto lo stesso percorso, poi ognuno è arrivato al proprio brand? No, è così, sono più città che stanno affrontando il tema del brand come strumento di sviluppo e di governance urbana e che quindi fanno un pezzo di percorso insieme, cercando di utilizzare anche al meglio alcune risorse europee, ma anche di mettere a fattor comune le proprie esperienze, il proprio know-how e quello che le esperienze e il know-how di tutte le nostre città può anche offrire alle altre città partner di questa rete. Quindi è proprio un camminare insieme, ma ognuno con la sua realtà, la sua specificità e anche il suo percorso. Mm-hmm. Più gruppi di lavoro, creativi, giovani, mi pare studenti e addetti ai lavori, oltre 370 progetti arrivati, se non erro. Alla fine è stato scelto quello disegnato da Anna Giudice e Valeria Morando, perché la richiesta dell'Europa era proprio questa, che ci fosse una e che ci sia ancora, perché è un processo che continua, ci fosse una partecipazione attiva dei cittadini. Alla fine è uscito questa scritta, Genova, con le lettere un po' monche, con le lettere un po' stilizzate, lo slogan More than this, più di questo. Cosa volete raccontare all'Europa? Perché è uno slogan che parla tutta l'Europa con questo brand. È uno slogan, un logo che vogliamo parli all'Europa, parli al mondo di Genova, dell'identità, della storia, della personalità, dei valori, delle attrattività e delle caratteristiche di questa nostra città, di questa nostra terra, quella splendida canzone di Paolo Conte che avete messo a introdurre questa chiacchierata, ecco, già parla un po' di noi. Ecco, abbiamo cercato, partendo proprio da un processo di partecipazione, come la metodologia Urbact vuole, un sì, processo di partecipazione di tutte le categorie economiche, forze sociali, mondi della cultura, dei giovani, dell'imprenditoria, che sono stati chiamati a esprimere quello che loro sentono nella propria città, che vedono nella propria città, l'identità che pensano, che vedono, che sperano a volte anche per la propria città, i valori, le attrattività, i punti di forza e i punti di debolezza. Queste riflessioni che abbiamo sviluppato attraverso un sistema complesso di focus group, di partecipazione molto allargata, sono state proprio la base sulla quale poi si è costruito il concorso internazionale di idee, che con una giuria tra l'altro composta dai vertici del design e della pubblicità italiana e internazionale, perché c'era anche la responsabile della comunicazione di Eurocities, mm-hmm, della commissione giudicatrice, ha scelto questo progetto dove Genova, che dice una cosa fondamentale credo della nostra città. Genova è una città che va scoperta, va vissuta, va camminata nelle nostre vie, nei nostri palazzi, ma più ci si ferma e più si trova qualcos'altro. C'è una città un po' misteriosa, un po' da scoprire, di una bellezza riservata, ma insomma per chi la prova, dicono così almeno le date delle affluenze turistiche che sono in crescita. Benissimo. Ok, grazie davvero Torre. Proprio in sintesi, un'ultima battuta, quanto ha stanziato l'Europa per questo progetto? Ma complessivamente per la nostra città sì, mi pare un 60.000 euro, di cui una parte piccola sono andate proprio come compenso. Perfetto. Dei vincitori di questo concorso internazionale di idee. Mm-hmm. E per il resto naturalmente servono a meeting, agli incontri, al lavoro insieme. Certo, tutto il percorso. Certo. Sì, tutto il percorso che durerà fino al 2015, perché ora c'è poi la parte della diffusione naturalmente, mm-hmm, in Europa e nel mondo. Le nostre pagine Facebook oppure comune.genova.it per vedere questo logo. Grazie davvero Torre, buon sabato. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Per te che cosa significa un'Unione Europea allargata? Rispondete a questa domanda con un articolo e partecipate al concorso organizzato dalla Commissione Europea. Possono partecipare tutti i giovani dai 15 ai 25 anni con la passione per la scrittura e con qualcosa da dire in non più di 700 parole. I più creativi possono vincere un e-reader e un viaggio a Bruxelles. Per partecipare c'è tempo fino all'11 maggio. Trovate il regolamento su ec.europa.eu/enlargement nel box Writing Competition. L'altra Europa. Get out and get something. Don't let the days of your life pass by. You need to get up, get out and get something. Don't spend all your time trying to get high. You need to get up, get out and get something. How will you make it if you never even try? You need to get up, get out and get something. Cause you and I got to do for you and I. L'Europa delle opportunità, l'Europa delle possibilità, l'Europa che tentiamo di raccontare anche noi ogni settimana con il nostro programma, senza nascondere quelli che sono i punti critici, quelli che sono i punti di debolezza di questa Europa, ma crediamo che sia bene anche raccontare invece ciò che funziona. Tante volte abbiamo sottolineato l'Europa della cultura, l'Europa dell'innovazione tecnologica, l'Europa dell'ambiente. Beh, oggi vogliamo toccare anche il filone delle dell'Europa dell'innovazione sociale, perché pensiamo possa essere davvero un canale di crescita non solo economica, ma soprattutto sociale e anche economica per la nostra Europa. E per farlo vi vogliamo parlare di un progetto molto importante che si chiama Transition, che è appena stato lanciato, un progetto che coinvolge 9 partner in 6 nazioni diverse, un lungo percorso di 30 mesi che va alla ricerca di quelle che sono le pratiche di innovazione sociale a livello europeo. Di tutto ciò ne parliamo con Marta Corubolo, scusami Marta, docente di design al Politecnico di Milano e membro di Polimi Desis Lab. Ciao Marta, buon sabato e benvenuta all'Altra Europa. Ciao a tutti e buona giornata. Mi sono un po' perso tra le vocali del tuo cognome, scusami. Nessun problema. Allora, un po' di coordinate, perché ci sono tante sigle, tanti nomi appunto in questo progetto in cui voi siete attivamente coinvolti. Che cos'è Transition? Allora, Transition è un progetto europeo coordinato a livello europeo da un'istituzione che si chiama IDN, che è un network di incubatori europei e che ha 9 partner sparsi in giro per l'Europa. Per quanto riguarda il nodo italiano della rete, questo nodo è composto da noi come Polimi Desis Lab e MecaCube, che è il primo incubatore per le imprese sociali in Italia. Okay. Noi siamo un po', come dire, gli operatori italiani di questa rete, che ha l'obiettivo di andare alla ricerca di potenziali innovatori sociali e dar loro una mano, dar loro un programma di affiancamento per trasformare le idee in progetti e fargli fare un passo avanti verso la realizzazione di quello che hanno in mente, delle loro idee per migliorare un po' la vita di tutti noi cittadini europei. Si può dare una definizione di progetto di innovazione sociale? Che cos'è? L'innovazione sociale sono tutte quelle soluzioni, quelle idee, quelle pratiche che hanno l'obiettivo di appunto un po' migliorarci la vita e che propongono soluzioni che rispondono a un bisogno di vivere meglio. Propongono nuove collaborazioni, nuove relazioni. Questo bisogno nasce un po' da un vuoto che c'è nell'offerta sia del mercato sia nell'offerta pubblica. E questi bisogni possono essere necessità di avere relazioni più forti, una migliore assistenza, una migliore cura, un uso migliore degli spazi, un uso migliore delle risorse anche ambientali. Certo, tutto ciò che riguarda un po' la qualità della vita in senso, esatto. Un progetto di ricerca, perché si va a caccia di queste buone pratiche, come sempre, per renderle poi magari replicabili o per ispirare attività simili, che funziona come? Tutti possono partecipare, tutti possono diventare propositori di qualcosa? Sì, esatto, Transition è aperto a tutti, non solo alle organizzazioni, non solo alle imprese, ma anche ai cittadini, agli amici, ai colleghi, ai vicini di casa che hanno un'idea e che possono partecipare innanzitutto a questi primi 2 mesi che si aprono fino al 15 maggio, in cui andremo in giro nella città di Milano a parlare di temi un po' più specifici legati all'abitare, legati all'alimentazione, legati all'artigianato, legati alla salute, al benessere, allo sport e così via. Sì. E avranno il tempo di mandarci le loro idee rispondendo a un questionario che troveranno online sul nostro sito. Una selezione di queste idee parteciperà poi a un processo di accompagnamento che si svilupperà nei mesi di maggio, giugno e luglio e che servirà a noi per dare a loro gli strumenti necessari a mettere in pratica questa idea e a svilupparla. E tutto ciò parallelamente viene fatto in altre città europee? Esatto, parallelamente in contemporanea ci sono altre 6 città europee che hanno altri 6 nodi della rete che si occuperanno delle stesse cose, dell'andare a ricerca di idee innovative che potranno poi essere testate nei vari contesti. Ma ci puoi fare un esempio pratico di un paio di idee innovative che tra le tante che stanno arrivando? Ci sono molti modelli che si stanno un po' testando, pensiamo ai modelli per esempio dello scambio di oggetti e di prestazioni tra i vicini di casa, esempi che nascono in Inghilterra ma che adesso si stanno sviluppando anche nelle nostre città con le social street, per esempio, in cui nei quartieri si stanno organizzando delle bacheche di oggetti e delle bacheche in cui io posso condividere il mio tempo e le mie competenze, fino ai modelli alimentari in cui faccio la spesa in maniera collaborativa, in cui do parte del mio tempo per creare un supermercato che è di tutti i clienti. Perfetto. Le coordinate virtuali e il sito internet di riferimento qual è? Il sito internet è transition.milano.it. Perfetto. Trovate tutte le informazioni e anche le modalità di iscrizioni per mandarci le vostre idee. Anche questa è l'altra Europa. Grazie davvero Marta, ciao e buon lavoro. Grazie, ciao a tutti. Europost-it. Vado a studiare e torno subito. Un progetto per i giovani. Torno subito è il progetto dell'Assessorato regionale Formazione, Ricerca, Scuola, Università della Regione Lazio per proporre percorsi di alta formazione e di sperimentazione di esperienze professionali formative in altre realtà nazionali e all'estero per creare un background di conoscenze utili ai giovani per inserirsi nel tessuto produttivo regionale. Ogni progetto si svolgerà in due fasi. Una prima di apprendimento realizzata al di fuori del territorio della Regione Lazio, sia all'estero che in altre regioni italiane, e una seconda fase dove verranno reimpiegate le competenze presso i partner nella regione. Per partecipare occorre non avere più di 35 anni e le proposte vanno presentate entro il 25 marzo. Per saperne di più, regione.lazio.it, nella sezione Formazione. With my own two hands, make a better place. With my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands. With my own two hands. Parliamo di ambiente ora, e lo facciamo perché è stato presentato un paio di giorni fa a Bruxelles l'Atlante dei conflitti, l'Atlante globale dei conflitti ambientali. È stato presentato dalla rete sulla giustizia ambientale e JOLT, e con noi c'è Lucy Grail, responsabile della progettazione europea del centro di documentazione sui conflitti ambientali, che si occupa di ricerca e formazione sui temi della giustizia ambientale e sociale, partner italiano del progetto. Buongiorno Lucy, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Tu sei stata a Bruxelles, dove appunto avete presentato questo importante Atlante. Di cosa si tratta? Allora sì, abbiamo presentato giovedì a Bruxelles una prima mappa dei conflitti ambientali che abbiamo realizzato all'interno del progetto IJOLT, che è coordinato dall'Università Autonoma di Barcellona. È un database che raccoglie al suo interno intorno a 1000 casi di conflitti ambientali, cioè di conflitti sociali, locali, territoriali in giro per il mondo, che nascono da una mala gestione dei territori legati all'accesso e la qualità delle risorse naturali, quindi legato a progetti di sfruttamento piuttosto che di produzione o di gestione dei rifiuti. È stato un lavoro elaborato negli ultimi 3 anni da una rete di partner tra università e organizzazione della società civile come la nostra, 23 organizzazioni che negli ultimi 3 anni hanno creato, pensato, elaborato questo database e inserito fino ad oggi 1000 casi, sperando di arrivare fra un anno a un numero di 2000 casi in giro per il mondo. E oltre appunto 1000 conflitti ambientali che sono segnati per ora in questa mappa, tanti conflitti in Africa, tanti in Sud America, vedendo un po' così, sto parlando per macro immagini che vedo nell'Atlante, ma anche tanta Europa, ci sono tanti puntini anche sul nostro continente. Sì, allora innanzitutto va sottolineato il fatto che questa mappa non è una mappa finita, non sarà mai neanche una rappresentazione statistica reale del numero di conflitti ambientali, che sono veramente numerosissimi, e molti di loro non ci sono purtroppo molte informazioni disponibili. Chiaramente è un fenomeno che non è soltanto un problema che riguardano il sud del mondo, ma sono problemi che riguardano anche l'Europa e anche il nostro paese. Ad oggi sulla mappa non si vede l'Italia, non perché è una dimenticanza, ma perché semplicemente ci stiamo lavorando proprio in questo anno e dovremmo poter lanciare l'anno prossimo una mappa specifica su casi emblematici nel nostro paese. Ma in Europa invece quali sono i casi emblematici, o qual è il caso che secondo te meglio spiega il concetto di conflitto ambientale? Paese, per partire anche dal nostro paese, sicuramente la questione campana, per esempio, no? La gestione dei rifiuti e la devastazione ambientale che conosce in particolare il casertano e napoletano è un esempio emblematico di quanto può accadere anche in Europa in una mala gestione di un territorio e di risorse, anche i rifiuti che vengono gestiti in maniera scellerata, che ha portato appunto alla devastazione di cui le popolazioni locali soffrono oggi gli impatti anche in termini di salute, visti appunto la gravità degli impatti sulla salute degli abitanti campani. Uno degli obiettivi principali di Giolte consiste nel rafforzare le organizzazioni per la giustizia ambientale e le loro comunità colpite. Un progetto quadriennale si concluderà nel 2015, questo primo step. Almeno siete soddisfatti del lavoro fatto e soprattutto è stato facile raccogliere il materiale? No, sicuramente non è stato facile. Siamo molto felici di questo primo risultato, che chiaramente continuerà a aumentare con più casi. Il lavoro che abbiamo svolto era da una parte mettere insieme diverse mappe che esistevano in giro per il mondo, quindi nella nostra rete abbastanza ampia c'erano già delle mappe molto evolute sia in America Latina che in paesi specifici come il Brasile, sì. E anche la mappa del CDCA che abbiamo costruito nel 2007, che raccoglieva 100 fra i casi più emblematici di conflitti nei sud del mondo. Quindi in una prima tappa è stata quella di elaborare una nuova forma di mappatura che rendesse l'informazione più accessibile. Dall'altra parte abbiamo fatto una volta tutto questo trasferimento di informazione all'interno di un unico database, sì. Abbiamo aggregato ulteriori collaboratori esterni, quindi o ricercatori o altre organizzazioni come le nostre, che hanno appunto proposto altri casi che l'equipe dei coordinatori modera e pubblica online. Qual è il sito internet per vedere la mappa? www.igiatlas.org. Perfetto, link che abbiamo già messo sia su Twitter sia su Facebook. Grazie davvero, complimenti a te e a tutto il team di lavoro per questo bel progetto. Ciao e buon sabato. Grazie a voi, buona giornata. Un euro post-it e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Diventa un Awakener. La Commissione europea lancia il concorso Diventa un Awakener, pensato all'interno della campagna Generation Awake per diffondere i principi dell'upcycling e del riuso dei materiali tra i giovani. L'obiettivo del premio è di spingere i giovani a pensare ai temi della scarsità delle risorse, del valore dei rifiuti e del potenziale della creatività per risolvere i problemi ambientali. Possono partecipare designer, artisti, artigiani, studenti o neolaureati in arte e design fino ai 40 anni. Si possono presentare foto e video di installazioni, strumenti musicali, statue, quadri, prodotti di design e accessori per prodotti tecnologici. Qualsiasi cosa sia, però fatta con la filosofia del riuso e del riciclo. Per leggere il regolamento e conoscere i premi, andate su generationawake.eu/diventa-un-awakener. L'altra Europa. Every day, hundreds of pieces of information on the spread of infectious diseases are generated by public health professionals across Europe and reported in the media. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, continua come ogni sabato il nostro viaggio per cercare l'Europa che è in noi, l'Europa che è attorno a noi, l'Europa che entra nella nostra quotidianità. E ora lo facciamo andando a Stoccolma, dove c'è un'agenzia. Le agenzie sono un po' così dei bracci operativi dell'Europa, e in questo caso parliamo di malattia. Stiamo infatti andando a conoscere l'ICDC, che è il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Lo facciamo con un italiano che là vive e lavora. Diamo il benvenuto al dottor Pierluigi Lopalco, che è capo sezione dell'assessment scientifico del Centro Europeo, oltre a essere professore di igiene all'Università di Bari. Ciao Pierluigi, benvenuto all'Altra Europa. Buon Buongiorno, buongiorno. Tu vivi a Stoccolma dalla fondazione dal 2005, se non erro, vero? Sì, praticamente dal settembre 2005. Com'è spostarsi da Bari e andare a Stoccolma? Beh, diciamo che c'è un certo salto di latitudine, ma non solo, cioè non è soltanto il clima e il cibo, diciamo, è una bella esperienza antropologica quella di vivere in Svezia. Uh-huh. Allora, l'ISDC è un'agenzia europea, è un organo tecnico che di fatto supporta la Commissione europea e il Parlamento europeo, in questo caso sulla sorveglianza di tutto ciò che è lo studio e la diffusione delle malattie infettive. Tu in particolare di cosa ti occupi? Sì, esattamente. Fino allo scorso anno io sono stato il coordinatore di tutte le attività che giravano intorno alla prevenzione e alla sorveglianza delle malattie prevenibili da vaccino, quindi vaccinazioni in generale. Ora è da un anno che dirigo un altro gruppo e mi occupo di assessment scientifico, in pratica coordino le attività di produzione di supporto tecnico nei diversi gruppi di malattie. Mm-hmm. Ecco, l'agenzia è un organo operativo, cioè voi siete i primi a scoprire l'influenza, per esempio, cioè, come entrate nella nostra quotidianità? Sì, in un certo senso sì, diciamo, non siamo i primi a scoprirlo. I primi a scoprirlo sono in effetti i medici, sono i medici che fanno il duro lavoro ogni giorno in prima linea. Quello che noi facciamo è raccogliere a livello europeo tutte le informazioni che tutti i medici d'Europa effettivamente inviano a livello centrale. Cioè, per fare un esempio, un medico in provincia di Bari scopre un caso di influenza, ogni fine settimana trasmette tutti i casi di influenza a livello regionale, dalla regione questa trasmissione viene fatta a livello centrale al Ministero della Salute e il Ministero della Salute trasmette questi dati a Stoccolma, e questo avviene più o meno con lo stesso schema in tutti gli Stati europei. Quindi noi ogni settimana produciamo un bollettino che comunica a tutti quelli che avessero interesse e necessità di conoscere questi dati, comunica appunto il numero di casi di influenza che si sono verificati nella settimana precedente. Mm-hmm. Uno ovviamente pensa all'influenza perché è la cosa più diffusa, la cosa più nota, ma il vostro lavoro comprende, immagino, tantissime malattie di cui forse non si pensa neppure più l'esistenza in Europa. Sono tante le sorprese ed è un lavoro dove l'attualità al giorno per giorno vi porta anche a lavorare su cose specifiche, su cose nuove. Assolutamente sì. Diciamo, quello che su cui noi poniamo una certa attenzione è quello che noi chiamiamo le malattie emergenti. Sì. Una malattia emergente può essere o una malattia antica di cui, diciamo, si parla sempre meno, è un esempio, può essere la tubercolosi, che magari nell'opinione pubblica può essere considerata una malattia ormai scomparsa, ma in realtà non lo è. Oppure emergente possono essere anche malattie di cui ancora non si conosce l'esistenza. Voglio dire, negli ultimi anni tutti noi siamo stati abituati a tante di queste emergenze, tra virgolette, quali la SARS o l'influenza aviaria. E molto recentemente in Italia si è parlato tanto di una malattia tropicale che è arrivata anche nel nostro paese, il chikungunya, sì, con questi nomi un po' strani. Ebbene, noi abbiamo un'attività specifica, conduciamo un'attività specifica che chiamiamo di epidemic intelligence, cioè cerchiamo di guardare in giro quello che accade in tempo reale con alcuni strumenti informatici, quello che accade nel mondo, per cercare di individuare il più precocemente possibile qualora emergessero delle minacce da parte appunto di queste malattie emergenti o riemergenti per i cittadini europei. Mm-hmm. Ecco, ci piace nel nostro programma andare a raccontare l'Europa che funziona e soprattutto quelli che sono i vantaggi dell'Unione, del lavorare in network, del lavorare in rete. Credo che il vostro sia un esempio lampante. I virus non conoscono i confini, quindi è fondamentale lavorare in sintonia con tutti gli stati membri. Assolutamente sì. Potrei raccontare tante diciamo, storie piccole e grandi di collaborazione e coordinamento. Se vogliamo fare un esempio, proprio recentemente, sto parlando proprio della settimana scorsa, sì, un nostro team è venuto in Italia per supportare le autorità sanitarie nazionali, il nostro ministero, per un'indagine, un'epidemia di morbillo che si era verificata su una nave da crociera. Questa nave da crociera che aveva girato un po' per il Mediterraneo, quindi aveva toccato i porti di Francia, Spagna, Italia, quando ci si accorge che 40 membri dell'equipaggio e anche più avevano sviluppato il morbillo, quindi con la possibilità di averlo già trasmesso a centinaia delle migliaia di persone che si trovavano a bordo di questa enorme nave da crociera. Quindi immaginate che cosa significa fare un'indagine su migliaia di persone, cercare di rintracciarle. Sono persone che provenivano da tutta Europa e che avevano fatto scalo in tre nazioni almeno della comunità europea. Quindi per questa attività di coordinamento noi, a richiesta anche degli stati membri, facciamo un supporto tecnico, forniamo supporto tecnico. In questo caso abbiamo inviato una squadra di esperti che ha lavorato appunto all'indagine di questa epidemia. Mm-hmm. Quindi azione, quindi studio, prevenzione. Avete lanciato per esempio questa settimana europea della vaccinazione che sarà ad aprile, giusto? Certo, certo. Questa è una delle attività fra cui, diciamo, una delle attività di cui io sono anche abbastanza orgoglioso, perché fino a pochi mesi fa mi interessavo proprio di vaccinazione ed ero fra i coordinatori di questa attività. È un'attività che noi svolgiamo in stretta collaborazione con l'OMS, che ha anche, appunto, come sapete, un ufficio in Europa a Copenaghen, e ogni anno, ormai da diversi anni, cerchiamo di, durante questa settimana, quest'anno sarà l'ultima settimana di aprile, quindi subito dopo le vacanze pasquali, cerchiamo di lanciare delle attività in tutta Europa di sensibilizzazione per aumentare un po' l'attenzione nei confronti delle vaccinazioni. Mm-hmm. Mentre a marzo, il 24, sarà la giornata della tubercolosi. In Europa la tubercolosi è ancora un problema? Diciamo di sì, anche se quest'anno riusciamo a trasmettere un messaggio abbastanza positivo, perché ormai sono diversi anni di seguito che l'Europa riesce a raggiungere l'obiettivo di ridurre di almeno il 5% l'incidenza di tubercolosi ogni anno. Però nonostante questo, appunto, la tubercolosi è una di quelle malattie ancora un po' neglette, di cui non si conosce bene la diffusione. Però, per dire, soltanto nella comunità europea ogni anno vengono comunicati a noi, all'ECDC, circa 70.000 casi di tubercolosi. Quindi è una malattia ancora presente, è una malattia nei confronti della quale bisogna avere un'attenzione alta. Comunque c'è da dire che anche in questo caso, insomma, il coordinamento e l'attività coordinata dei diversi ministeri della salute sembra funzionare, insomma, stiamo avendo dei risultati in questo settore. Insomma, siete un po' degli angeli custodi, e questo è bello, insomma, è fondamentale ed è importante. Beh, è la prima volta conoscere che sento sapere questa definizione, devo dire che mi piace. Perigi, tu ti sei preso l'influenza quest'anno? No, sono vaccinato. Ecco, certo, insomma, testimonial in tutto, vero, per l'agenzia? Assolutamente. Il sito cdc.europa.eu per chi volesse conoscere le attività dell'agenzia. Grazie davvero, Pierluigi, e in bocca al lupo a te e a tutto il tuo team di lavoro. Grazie ancora. Grazie a voi per la chiacchierata. Ciao, buon sabato. Arrivederci, lo stesso. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora in qua con l'altra Europa. Europost-it. Conosci i tuoi diritti di consumatore? Il 15 marzo è stata la giornata europea del consumatore e la Commissione europea ha lanciato la campagna per informare i cittadini dei loro diritti. Sapete per esempio che quando comprate qualcosa online avete diritto a 14 giorni di riflessione e potete recedere? Oppure sapete che il fornitore di servizi web deve soddisfare alcuni requisiti minimi e fornire determinati dati? In questi anni la legislazione europea è stata aggiornata molto per rafforzare i diritti dei consumatori e la Commissione europea ha avviato una campagna rivolta ad informare i cittadini proprio su questi diritti. Per conoscere i vostri diritti online andate su europa.eu/youeurope/citizens/shopping. L'altra Europa. Europost-it. Seminari su Erasmus+. Siete curiosi di saperne di più sul programma Erasmus Plus e in particolare sulla parte relativa alla mobilità e alle opportunità per i giovani? Allora segnatevi le date dei seminari organizzati dall'Agenzia Nazionale per i Giovani in giro per l'Italia proprio per spiegare questi progetti. I prossimi appuntamenti sono il 25 e 26 marzo a Messina, il 15 e 16 aprile ad Ascoli, il 13 e 14 maggio a Torino, il 25 e 26 giugno a Cagliari. Per conoscere il programma e iscriversi andate su agenziagiovani.it. Lì trovate anche i link per seguire le dirette e avere informazioni sui seminari attraverso i vari social network dell'Agenzia dei Giovani. Je ne suis pas ça. Pensais que j'étais comme ça. Ni ça. Je ne suis pas ça. Et je ne suis plus ça. Ni ça. Ni ça. Ni ça. Ni ça. Mais je suis tout je ça. Je suis tout ça. Je suis lui. Lui. Lui. Lui et lui. Et lui. Mais lui et lui aussi. Et lui aussi. Je suis français, espagnol. Je suis français, espagnol. C'è l'appartamento spagnolo, la partenza di questo Erasmus, il decollo, l'Erasmus come un viaggio di Erasmus. Parliamo ancora in chiusura di questa puntata, abbiamo sentito prima del, appunto, di questo tour che c'è per presentare Erasmus Plus, ma non solo, c'è un'altra importante iniziativa, durerà infatti fino al 13 aprile la nuova edizione di Erasmus in Schools, l'iniziativa promossa da ESN Italia in collaborazione con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus più Indire. Sono di fatto gli studenti che hanno fatto, che stanno facendo l'Erasmus, che entrano nelle scuole superiori per raccontare, per condividere la loro esperienza. Quindi è l'Europa in carne ed ossa, l'Europa rappresentata da giovani universitari che incontrano colleghi di qualche anno appunto di meno, che saranno i prossimi, sarà la prossima generazione Erasmus, per invitarli così a già pensare alla possibilità, all'idea di fare, di vivere questa esperienza. Di tutto ciò ne parliamo con Rita, che è una ragazza portoghese che ha partecipato a un incontro presso il liceo artistico Boccioni di Milano. Ciao Rita, benvenuta all'Altra Europa. Ciao. Ciao. E poi c'è Stefano Di Franco, responsabile del progetto Erasmus in Schools per ESN Yulm. Ciao Stefano, benvenuto anche a te. Ciao, grazie ciao. Mille. Allora Rita, tu hai fatto o stai facendo l'Erasmus? Allora, io in effetti ho finito più o meno il mio Erasmus e ho continuato come studentessa exchange, per dire, l'Erasmus mi ha aperto le porte per continuare a studiare all'estero. Mm-hmm. E tu sei entrata in questa scuola, ti sei confrontata con i ragazzi, credo di quarta e quinta, quelli un po' più grandicelli. Che sì, esperienza esatto. Hai portato? Cosa hai raccontato? Allora, in effetti quello più importante è un po' fare parlare della nostra esperienza, ma più importante è parlare un po' più delle difficoltà che esistono quando arriviamo in Erasmus, sia la lingua, i costi, la differenza tra i paesi, differenze culturali, tutto quanto. Mm-hmm. A te l'Erasmus ha cambiato la vita? Sì, sì, sì? Sicuramente. In che direzione? Allora, io a questo punto studio in Italia, a Milano, e non avevo mai pensato studiare all'estero fino a che ho avuto l'opportunità di fare Erasmus. Mm-hmm. E quindi, insomma, da lì hai capito che poteva esserci anche altro. Stefano Di Franco, intanto, ricordiamo che cos'è ESN? ESN è l'acronimo di Erasmus Student Network, praticamente è un'associazione nata nel 1989, nel 94 in Italia, e sono tutti ragazzi volontari che hanno fatto l'Erasmus o comunque che aiutano i ragazzi che vengono a fare l'Erasmus in Italia nella vita quotidiana, li aiutiamo a cercare casa, organizziamo eventi in tutta Italia, eventi culturali, sportivi, tra cui anche nel sociale con il progetto Erasmus in School, ecco, che è il nostro progetto bandiera. Esatto, che è il progetto bandiera proprio perché si rivolge ai più giovani. Anche tu sei entrato nelle scuole e anche tu che tesoro hai portato del tuo vissuto Erasmus? Beh, io ho portato sicuramente la mia esperienza, ma soprattutto poi l'esperienza che ho accumulato anche dopo il mio Erasmus, come ha cambiato la mia vita l'Erasmus, quello che faccio in SN, come comunque ha cambiato la mia vita l'Erasmus, perché comunque anche dopo l'Erasmus questa esperienza inizia a maturarla un po', capisci un po' come ti è cambiata veramente poi la vita. Mm-hmm. ecco sì, questo è stato il mio apporto alla giornata, diciamo. E com'è stata la reazione dei ragazzi? Sono curioso in cosa? Quali domande ti hanno fatto? I ragazzi sicuramente erano lontanissimi da quella che può essere un'esperienza Erasmus, perché per loro comunque è ancora lontana l'esperienza dell'università, anche essendo all'ultimo anno. Loro sono ancora lontani da quella che può essere un'esperienza Erasmus, però loro erano molto curiosi, erano curiosissimi di cosa potesse essere comunque andare a vivere all'estero, quali sono un po' le prime difficoltà, cosa vuol dire comunque fare un'esperienza al di fuori della propria città o comunque al di fuori del proprio paese. Erano curiosi. Noi abbiamo anche lanciato un contest in cui chiedevamo dove avrebbero voluto comunque fare l'Erasmus, immaginandosi all'estero, no, già in Erasmus. Abbiamo fatto un contest sui social, i ragazzi hanno risposto tanto a questa iniziativa. Come? Ci sono delle mete privilegiate? Di solito quella più gettonata è la Spagna, diciamo, un po' perché la lingua, diciamo, il paese è più vicino a noi, no? Sia di usanze che anche di lingua, la lingua è un po' più facile anche già da capire. O comunque è quella più gettonata di solito, anche perché conoscono già tanti studenti già a Milano spagnoli, quindi è la meta più gettonata sicuramente la Spagna. Ma hanno il pregiudizio che l'Erasmus sia una grande gita scolastica, una grande vacanza? È quello che noi comunque cercavamo di spiegare, che quello che passa di solito, la moda del momento è che l'Erasmus sia esclusivamente un'esperienza ludica, no, divertente. Invece noi abbiamo cercato proprio di far capire che quello di conoscere altre culture, avvicinarsi ad altre culture, cercando poi di sconfiggere alcuni stereotipi che ci sono sia dell'Erasmus che verso altre culture. Sicuramente questo è... Rita, tu conoscevi già l'Italia prima di sceglierla come meta? No, infatti ho scelto Italia per venire in Erasmus perché da molto che voleva venire in Italia e allora come prima scelta ho deciso di scegliere Italia. Ecco, e quando hai fatto il tuo zaino, immagino che anche tu dentro abbia messo qualche pregiudizio sull'Italia. Quali sono i pregiudizi con i quali sei partita e quali di questi pregiudizi poi hanno trovato conferma? Allora, vabbè, come in tutti i paesi ci sono, per esempio in Italia si sente sempre la mafia o la pasta e tutto quanto, si mangia tantissimo. In quello che tocca ho cambiato tantissimo la mia opinione e continuo tutti i giorni a cambiare un bel po', perché sia per cose che avevo sbagliato e altre cose che pensavo di modi completamente diversi. Comunque ogni giorno che mi sveglio qui a Milano imparo un po' di più della vostra cultura italiana. Erasmusinschools.esnitalia.org è il sito per tutte le informazioni. Grazie Rita, grazie Stefano e grazie a tutti i ragazzi che come voi stanno entrando nelle scuole per raccontare questo pezzo d'Europa. Adesso un Europostita a cui teniamo particolarmente perché è un pezzo d'Europa che è importante ricordare, perché è il passato, perché è il presente, ma perché è anche il futuro. Europostit. Cercavamo la pace per ricordare la solidarietà nei Balcani. La guerra nei Balcani negli anni 90 ha mobilitato migliaia di persone attraverso l'Europa che hanno manifestato per la pace, ma hanno anche portato aiuti e offerto ospitalità ai profughi. Per questo motivo il portale Osservatorio Balcani e Caucaso ha lanciato Cercavamo la pace, un progetto di ricerca per ricostruire l'esperienza del movimento di solidarietà italiano con i Balcani attraverso la raccolta online di ricordi e documenti di quel periodo, proprio come se fosse un vero crowdsourcing di fotografie, video, diari, volantini, manifesti e documenti. Hai partecipato a quell'esperienza? Hai materiale dell'epoca che ritieni interessante? Non lasciare che vada perduto. Condividilo sul portale di Osservatorio Balcani e Caucaso, balcanicaucaso.org, nella sezione Cercavamo la pace. Ma soprattutto, prenditi 10 minuti per compilare il questionario online. Potrà servire ai ricercatori come materiale d'analisi, dare stimolo ad altri studi in futuro e contribuire a conservare memoria di quei giorni. Vi ricordo che anche questo Europostit, come tutti gli altri, potete ritrovarlo sul nostro sito, da dove potete riascoltare la puntata, radio24.it. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra, Katia Marinelli, Margherita Aina, Pietro Lacorte, oggi alla parte tecnica. L'appuntamento con l'Altra Europa, come sempre, è a sabato prossimo. Ancora ciao, da Federico Taddia. l'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.